palestinese, Claudio. Pericolo già arriva, c'è problema. Arriverà. Si collocano gli ordini, a me ci ha messo 3 giorni. Ho ordinato mercoledì, no, martedì, ho fatto mercoledì, giovedì e venerdì mattina è arrivato. Ma quando ha spedito questa roba, l'ha spedita il martedì, il mercoledì, sono rientrato alla pausa con lo scuolabus. Ho detto, te lo faccio il caffè, mia moglie, sono qua, come fa, mentre mi ha pensato una sera tantina con il campanello, insomma, stavo a quest'ora, non ci sarebbe male, invece il corriere era, ha detto, c'è un pacco qui, molto quello era, insomma, se è scritto, ma ti inserete così. È venuto uno che lavora con Walter, questo ragazzo. Ehi, ne conosco tanti, ma bisogna vedere chi è. Non so se è Paco Celere, c'è poco da discutere. Sono quei giorni lì, capito? Quindi già va bene. E Falchetto, non si è sentito? No, si vede che sta cenando, ma è preso ancora qualche volta entra la classe, qualche anche tardi, e niente, io ho attaccato il collo. L'MPC funziona in bypass, come in passenger, e come stazionale ne annunciano la mandola. Oppure adesso vedrò la di sistemare, avevo guardato il catalogo, i filari, poi quando vengono non sono accorto, perché no, l'altro giorno è passata la ECO, a proposito, l'ha vista mia moglie, è passata una macchina, o dove già li conosco. I filari di sistema, tanto più di servitore, c'ho anche il colore attestato nel WL, e così. Però ho visto che le attende bene per la KF, sono così, tanto cosa mi consigli di mettere il filare o antenna? Non per lui solo che fai tu, bastava un filare. Quindi io un'antenna filare di quelle della Ecoantenne a 4 bande, 10, 20, 40, 80. Già va bene. Io ho quella di 10, 20, 40, 80. Più che sufficiente. Cosa metti verticale? Fare che cosa? Verticali possono abbarcare i soldi. E poi per fare che cosa? Per ascoltare. Per ascoltare va bene anche un pezzo di filo. Infatti no, ma chi con questa ascolta, stamattina erano 40 metri, arrivano a bomba, arrivano con le chimiche, che io non ti devo passare, non mi permetto mai. Hai capito? Poi per esempio, ognuno per fare accendere, per fare funzionare il gestionio, tanto questo l'uso in vendita, però faccio anche l'angolino come faccio tu per il palazzino, hai capito? Dipende da quello, dall'uso che ne vuoi fare. Io fatto una prova di un apparecchio che ho comprato due secondi qua, era, ho preso il portatilino, lo recitavo piuttosto di sempre, e con il segnale solo che l'altro, e quindi tutto a poco. Allora, basta con anche il segnale, mi sono vista qua, il segnale, ecco, ce li ha e funziona, anche quello è una soddisfazione, grazie. Hai capito, non qui no, le antenne in finale potrebbe andare più che bene, poi diciamo, e quelle di Giancarlo ha messo un'antenna di quelle verticali, ma a me questa mandorla mi basta e mi avanza qua. Sì, ho voglia che basti avanza, non c'è un problema, basta e avanza, basta e avanza, perché la mandorla fa un po' di tutto, quindi lo riceve è più che sufficiente, è più che sufficiente per riceve. Io lo sento per il fermo qua, adesso te lo dico da amico, da fratello, perché sono un appassionato, io mi fermo e tu mi fai prendere da Raffaele e sto guardando sì, perché mi sarebbe detto da me quella linea di clave è completa, sarei l'uomo più felice del mondo, salvo se non c'è da se mi trove, non so se lo usa, capito? Quello lì mi interesserebbe davvero per tutti gli ingredienti qua a trasmettitore. Ma non ce l'ha doppia, non è che non la usa, non ce l'ha doppia. Ce l'ha doppia, così mi aveva detto almeno una volta. Ce l'ha doppia, io non l'ho più sentito in 80 metri. Perché lui viaggia solo in 80 metri, sta in 80, qualche volta l'ho sentito in 40, ma di solito sta sempre in 80 metri. Se mi capita di sentirlo, perché io non c'ho manco il numero di telefono da fare, se mi capita di sentirlo, glielo dico. Più quelle di prima, costano un bel soldi, posso offrire come effetto da museo, ma già mi interessa. No, non ho quelli che mi sono, se lo garage, ma che lo guardo, non ho quelli che mi interessano, no, vendere non vendo niente, perché sono cose, hai capito, clare, niente, le trovo a qualche, diciamo, le prenderò a te, me ne compro un altro, e perché non per l'apparecchio, non per il servizio, e sono in tempo, quello lì. E poi niente, questa roba non le stampe, se mi interessa, quello lo accendo, di tanto le metto la lampadina da tempo per farlo, e ho visto che è 100 watt da quello, me la raccontino, c'è un amico mio, un vetro verde, e niente, è una passione, io, diciamo, te l'ho detto, non frequento il bar, non fumo, hai capito, faccio un altro lavoro, però se tu mi telefoni e già vieni e andiamo a fare una cosa, a trovare sempre gente a livelli che dico io sempre, ero un grande amico di Francesco Ossia, hai capito, niente, perché a livelli non è che io, diciamo, classifico la contesta, capito, io sono amico di quello, frequento le persone come se gente che io sono chiaro, non gente che nell'apparecchiatura si è trombate, perché ho sentito in tanti anni che si sono trombate, usano anche le linguaggi volgari, quelle persone lì già lo fanno per me. Ho selezionato un po' la giostra io, Gianni, selezionato perché la cosa stava iniziando a scantonare, quindi io non ho mai avuto problemi con la giustizia, non ho mai avuto nessun problema con nessuno, non voglio mettermi nei guai per qualche deficiente che pensa di essere chissà chi e poi non è nessuno, e quindi ho tagliato un po' la corda, sto per i fatti miei, frequento le persone che possono stare al mio fianco, il resto non detto, non mi interessa, il mondo della radio è un mondo un po' particolare, che io vivo dal 1973, e quindi c'è ancora il muccio del naso, pensano di sapere, di voler comandare, di fare, quindi non è gente che fa per me. Poi la gelosia si rimangia e quindi è meglio lasciar perdere. Viaggio con chi devo viaggiare, non c'è problema, io sono amico di tutti, tutti mi conoscono e quindi non ho problemi di stare con persone del genere, capito? Va bene così, l'hai visto oggi la gente che c'era, io sono un trascinatore radio, non ho problemi, avevo deciso di non entrarci più, poi mi sono fatto un po' un così, ho detto ma io perché non devo entrare in radio solo perché quelle poche persone mi odiano, a me non me frega niente, mi odiano quelle poche persone, ce ne sono altre che mi apprezzano e quindi ho deciso così, ho riarmato il canale 10 e siamo abbastanza contenti e tranquilli perché la gente sta entrando, la gente parla del più del meno e passiamo la giornata senza avere rompimenti di palle in mezzo ai piedi. No, io claro, sono delle parere che vado anche su altri canali, perché il baracchino è un bene comune, se uno usa un linguaggio, diciamo, hai capito, normale con le persone, che non si chiedono, la dopo per me ha fatto dire con voi, ho avuto 5 minuti, io poi però mi è passato subito, sono come quelle corne che hanno il gas, quando appena diciamo, dovremmo essere sempre un posto di occorrenza perché il rispetto del prossimo è una cosa naturale, bisogna rispettarlo il prossimo, non deve essere perché Claudio c'ha questa radio, io sono geloso, non è così. Claudio ce l'ha perché ha fatto dei sacrifici, ha fatto questo, ha fatto l'altro, l'altro tipo ce l'ha perché ha fatto altri tipi di sacrifici. Quindi uno ce l'ha volendo, faccio questo tipo di sacrifici e me la compro anche io. Oppure se uno ha la moneta disponibile va, non bisogna essere gelosi perché uno ha taglio più al cielo, questo c'ha le altre due cose, quello c'ha le altre cose. Ognuno ha capito, però quello che ha quello tutto è un'altra cosa e quello non ha. Ecco come la penso io, Claudio. Noi la pensiamo entrambi uguale, però il mondo della radio io la vivo diversamente dagli altri e quindi siccome alcune persone non sono d'accordo con il mio punto di vista, io no, viaggio per i fatti miei, capito? Io apprezzo tutto, apprezzo qualsiasi cosa, però il fatto che la gente sia prepotente a me poco mi piace. Siccome c'è molta gente con mocio al naso e quando io facevo radio lui ancora era nelle cose del padre, quindi non c'è rispetto, perciò zero sotto zero. Cosa vuol dire? Non funziona così, capito? Io sono un ragazzino, ho 50 anni e tu mi miglia a botte, a me mi dici. E dici tutti i colori, ma sì, ma no, è fatto un brutto. E quindi non ho mollato questa gente, non mi interessa più. Sono qua, io sto viaggiando, guarda, ho venuto Giulio oggi e mi ha fatto piacere, è venuto perché dovevo prendere le misure e deve completare la scrivania. Ma ho fatto veramente un grande lavoro, un grande sacrificio, ho speso una barca di soldi, proprio perché la mia passione è questa. La mia passione è il mondo della radio e perciò ho voluto continuare anche se posso tranquillamente cambiare canale e andare dove mi pare mi piace, a differenza di tanti altri che si credono grandi, non sono nessuno e quindi niente. Però io ho un canale singolo per canale 10, non mi sposto da nessuna parte, non vado a parlare in altri canali dove sono persone che non mi interessano, non sono andato in giro come ha fatto qualcuno a dire alla gente non parlate con Claudio Sparviero, quindi sono una persona abbastanza corretta e soprattutto molto più educata di qualcuno. Stasera è entrato la gente qua nel canale 10, non ho assolutamente vietato a nessuno di parlare, sono stato zitto e basta, non mi interessa. I canali sono di tutti, possono entrare a parlare dove e quando voglio, a me se io non parlo con le persone sto zitto e basta, quando vanno via riprendo a parlare, non impongo a nessuno leggi e niente, cosa che invece qualcuno ha pensato di fare, ma sicuramente ci è rimasto molto male, perché la gente entra a parlare con me, sta con me in compagnia, si diverte e fa radio soprattutto. Perché noi trattiamo, quando parliamo tra noi, con te, con per esempio Cito Assandro, Cito, trattiamo di nuovo di radio, non di altre cose che non riguardano la radio, di altri chiaramente, però deve guardare l'attività radioattivistica e non altre cose, capito? Poi, diciamo, l'altra volta io stavo modulando, c'è Teatro Guida, c'è gente anche che si attiene il fuoco nello sotto e ho fatto una sparata a Pomponio perché la sera ero anche incavolato per condizioni di lavoro, la roba è diventata una girata e allora lo, diciamo, però mi è passato, non mi sono malamente, cioè, non mi sono malamente perché la radio è fatta per tante cose, io con te, con te, con te, con te, con te, guardano le radio, con la roba la mia, poi non mi sono malamente, le cose delle l'altra gente, quelli che modulavo prima, negli anni 70, facevamo proprio sempre, anche quando è nato il baracchino, sempre per misurare la stazione, non abbiamo mai parlato di altre cose, e volgari anche offendere le altre persone, quello me ne riguarda di bene, però uno che a me mi fa e mi dice, hai capito questo, non ha niente così, questo volgare non si rivela, se uno non può ragionare dentro la mente della persona, io la devo conoscere, perché a persone mi hanno detto addirittura che io, a te io ti conoscevo, che ci conoscevamo, io non l'ho mai visto, ho detto non esistete perché poi mi arrivo pure, non l'ho mai visto, l'ho fatto solo per radio, quindi non faccia faccia, l'ho visto solo sul computer, sul corpo ali, però io non ando mai al bagno, se non lo conosco, hai capito bene, poi verrà il giorno che ti conosceremo di persona. So tutto, non ti preoccupare. Io so tutto di tutti. Anche se qualcuno pensa io non so niente, so tutto. So tutto, so chi c'è a casa tua, chi ti ha parlato di me, eccetera, eccetera. A me non interessa. Io non ti conosco, non so chi sei, non ti ho mai visto. Io solo ti conosco tanti anni in radio e basta. Tutto lì. Perciò la cosa appunto che non condivido già da diverso tempo è che come subito entra uno nuovo, bim bum bam, subito si diventa amico e si condivide un po' tutto, si va a casa, qui e là, non funziona così la radio, non funziona assolutamente così, perlomeno io la vedo diversamente, ho un punto di vista diverso. A casa mia non ci viene nessuno, non ci entra nessuno, quello che devo far entrare lo vedo io, sia un vecchio amico d'infanzia, sia una persona corretta ed educata, perché soprattutto sia sincero in quello che vede, in quello che deve portare fuori, capite? Ma questa cosa a me di riempirmi la casa di CV che hai appena conosciuto in radio, non so perché pure nuovo li si accaparrano tutti sopra, lo vuoi questo, lo vuoi quest'altro, ti offro questo, ti offro quest'altro, io non offro niente a nessuno perché non vendo niente, anzi compro più che vendere, capito? E quando una persona merita o ha meritato, ho sempre regalato, non ho mai venduto, perché non mi è mai fregato una niente. E poi a quello è la prima persona che poi ti prende a calci nel culo, capito? Perciò basta, finito, non voglio più sapere niente di nessuno, non mi interessa, uno può entrare anche con baracchino che sta prendendo fuoco, a me non me la futti proprio nulla, capito? Già ci tenevo troppo, ci ho tenuto troppo, ho cercato di essere sempre amico con tutti, poi alla fine arrivo di persone che non sanno manco cosa vuol dire radio, che pensano veramente di saperlo, è successo quello che è successo, a me non voglio sapere più niente di nessuno, io sono sempre qua, tanto ci sono sempre, anche quando non parlo io ci sono, seguo, faccio, sto attento, non pensino che io non ci sono, ci sono sempre, dal giorno alla notte, e so come comportarmi, poi non c'è problema, non di certo mi metto a sbrodolare dietro un microfono e a prendere a provarci la gente, non c'è problema. Tutto procede come deve procedere, comunque manda le ciance, non se ne fotti nulla, come ti trovi con quella radio, quindi bene. No, per quanto sto dicendo è perfettamente ragionevole, il fatto che riporta un attento perfetto, di nuovo c'era solo mio figlio grande che ha iniziato solo a fidarci il salon, come si chiama, delle scarpe, l'album che era 50 e si ha fatto tutto da solo, e sono offesi perché erano offesi anche di media piazza d'antenna con la figlio l'hanno fatta perché il giorno non avevo da fare niente, però se erano venuti erano guardati, però come sto tu molte volte mi sarebbe guardare bene da contattare telefonie perché poi se faccio entrare a Claudio ci offende l'altro, se faccio entrare a Tizio ci offende Claudio, quindi io sono una persona a fare un conto di quanti compro la gente che conosco, l'ho fatto così, l'ho finito agli altri a prendere un caffè a trovare all'offerto in carrozzeria, e sono fatto così, però uno non mi può insistere che una persona io la conosco se non la conosco, se la conosco di persona non ha avuto modo, però senz'altro mi avrebbe fatto piacere, però non devo andare a dire perché poi mi sono anche incapolato e perché la roba era fatta con licenza, licenza di cosa? Perché io non devo frequentare questa persona perché ci hanno avuto dei problemi su, io poi l'ho pensata così, dai. Io non ho avuto problemi con nessuno, non ho avuto problemi con nessuno, non so niente, non voglio sapere niente, ti ripeto. Io guarda, ne ho tolto quattro antenne da solo, da via Pascoli, le ho tutte pulite, messe come dovevano essere messe, quando ho trasloccato, che prima mi sono sistemato tutta la casa. E dopo mi sono piazzato le antenne da solo, non ho bisogno di nessuno io, capito? Non ho mai avuto bisogno di nessuno, sono gli altri che hanno sempre avuto bisogno di me, io mai ho avuto bisogno di nessuno, mai sono andato a chiedere niente a nessuno, perché non mi manca niente, e posso dare a chi voglio di radio e anche di soldi, capito? Quindi non mi interessa più nulla. Solo ti ripeto che bisogna stare molto attenti, molto molto attenti, perché quando sei convinto di fare del bene, allora ti arriva la mazzata, e allora abbiamo imparato, vuol dire che si impara da grandi, con tutta l'esperienza che ho di radio, ho imparato da grande a fare uno più uno, capito? Comunque. Non si impone mai niente a nessuno, io non ho mai imposto niente a nessuno, ho sempre parlato in faccia, quando una cosa non mi è piaciuta l'ho detta e quando una cosa non mi va la dico e la continuo a dire, invece sono successe altre cose che non dovevano succedere, per colpa di qualcuno che c'ha la lingua troppo lunga, molto lunga, e comunque tutto eliminato oramai, è passato, è già più di un anno e no, è proprio, per me è passato, adesso guardiamo al presente e soprattutto al futuro, il passato è passato, va bene, quello che stavo dicendo un'altra cosa, ma non lo ricordo più, va bene. No, per quanto riguarda quell'MFG, lascialo così sul bypass, poi magari se vuoi inserire qualche altra radio, puoi fare come hai detto, un'unica antenna e ti commuti prima su una, usi un po' una, poi ti commuti sull'altra, usi un po' l'altra, capito? Come faccio io, faccio un commutatore d'antenna a 8 e commuto con una unica antenna, commuto 5 bande più 3 barche, quindi me le seguo un po' tutte le radio, dai. A me mi va benissimo così, a me mi interessa come sta funzionando adesso in pratica, non ho detto perché ti conosco di fidare, ho fatto solo una domanda per conoscere meglio le mie figlie, cioè per essere tu che sennò che sono più esperta, hai capito, non è che io lo volevo, perché cioè se, quello che voglio mettere è avere un'antenna HF bene, essere accordato bene come ricevitore, però va benissimo il bypass, si fa da Vattenmetro, da viene da, come si chiama, da Londra, quello lì va benissimo così, non deve portare a poi se eventualmente diciamo questo o bene nel tuo esame che va tutto bene, allora diciamo lo metterò, però non più tanto, grazie, mi va bene anche a parlare qui, perché ho ascolto 40 80, però ho visto che sta segnando, poi ho fatto un'unità che si chiama sicuramente aspetta Gavino, la fine non me la ricordo, stavo ascoltando un po' i 40 metri e vado in che modo in Sardegna questo polo di attività su quelle frequenze, vero? Sono frequenze un po' particolari dove scegli da filare, comunque qualcosa ce la fai, ho fatto un po' di collegamenti, ho partecipato a contest sempre con la filare, però con la direttiva chiaramente vai molto meglio, non c'è problema. Una filare per te va benissimo, ce l'ho anche io, c'ho la G5RV, c'ho un dipolo a 5 bande, va benissimo, non ci sono problemi, qualità prezzo, un'ottima antenna, non messa come invertita, ho fatto, io ho 5 calate di cavo, 50 metri di discesa per cavo, ho speso quasi 500 euro solo di cavo, quindi non è che sto lì a guardare questo e quello, nel lavoro l'ho fatto, ho dovuto chiamare l'autoscala per farmi canalizzare i cavi di discesa per non lasciarli in facciata, quindi mi è costato una barca di soldi questo lavoro, ancora non ho finito perché sto facendo l'altro pezzo della scrivania, mi ha fatto Giulio questa, adesso mi sto facendo l'altra, devo ancora fare l'impianto dei faretti che vanno sulla radio, è una bella stanza questa, è venuta una cosa bella anche perché ero da tempo che dovevo avere la mia stanza per i fatti miei, ci sono riuscito, quindi devo tenermela ordinata, non c'è nessun problema, non ci sono cavi per terra, non ci sono cavi appesi ai muri, non c'è niente, è tutto sotto canale, tutto ordinato, tutto a posto. Vabbè, comunque questo è il quanto. Persona da poco vi ho sentito, sono proprio parole sagge e giuste, perché io quando sento qualcosa che va bene lo dico, le parole se ne sono sprecate troppe e se ne sono dette tante, è ora di fare fatti e basta, è finita con le stronzate, con i geramenti e con le tante altre cose, Gianni. Infatti, credo di noi, ho pregato per Roberto e per gli altri che devono andare nell'esame, che ce la faccia, che sono per gli altri, hai capito, perché Roberto c'è tanta passione, molto speriamo anche che riesca, perché ha studiato per me, l'anno scorso mi ha fatto tutta la pappardella, io lo so che lui ama, ho pregato tanto perché ce la faccia, ho parlato con Pizzale l'altro giorno, poi io sono Pizzale un po' su perché ho questa roba, stavo sicuro, quando la roba ricordo che sto cercando, dovevo ordinare radio tecnica per la pubblica, lo ordinerò sempre, mi metterò a giorno di impegno anche per lasciare la mente fuori da, perché qui anche la gente presente, cioè, poco fa che ho mollato in Italia di ieri c'era la mensa, era pieno di gente, e capito che ho dovuto lasciare come sorella perché erano andati a suonare, e quindi era questa patronale e volevano dei conti che eravamo più figli, e niente, quindi ecco, però ho detto mi dedico a queste cose, a studiare proprio per approfondire, quindi io sono per la bella, non per andarci a parlare, capito, se ce la faremo una chiacchierata, ce la faremo fra noi, capite, poi iniziamo anche a partecipare a qualche queste opori, tutto venga, grazie. Poi per il resto che mi stavo dicendo tu di incanalare le colline, io ce l'ho qui dove c'ho la stazione, avevo fatto quando ho ritornato a casa un coso, un tamponamento, cosa questa cosa non si fa solo quello. E poi del resto altro, posso anche, diciamo, le persone che a volte anche si perdonano, si lasciano, hai capito, o per gelosia, molte volte anche quelle altre, bisogna queste persone assecondarle, perdonare, stare un po' in pace, io la penso così, però che uno non vada a pestarmi i piedi, e allora divento molto, diciamo, anche divento quasi ipocrita, mi difendo come si difende qualsiasi cosa, se il gatto lo tocchi, oltre ti grazia, così è. Eh sì, infatti. La persona è buona, è tranquilla e poi diventa la modella. Se non si la fanno con le mani, poi si beccano le armi e allora è meglio fare da bravi. Lascia perdere queste persone che ti provocano, che cercano di avere chissà che cosa. Poi alla fin fine guarda in faccia e non vale neanche la pena dare uno schiaffo. Perciò siamo tutti bravi a nascondere dietro il microfono, caro Gianni, ma sono tutte cose vecchie che abbiamo già passato, quindi no. Sono discorsi, ti ripeto, sono parole buttate al vento, basta ignorare, fare e avere il buon senso di stare fermo al tuo posto come ho deciso di stare io, capito? Tutto lì. Va bene, va bene. Sono le 11:20, già mi sa che io chiudo, perché altrimenti domani sono anche solo, anzi siamo in due domani su Sassari, uno in ferie, rientra martedì. Ho sperato martedì non mi tocchi andare alla Ginara, perché non ho nessuna gana, non ne ho molta voglia comunque. Io per domani mi organizzo così, poi si vedrà martedì. Ok Gianni, dai, dobbiamo stare presto a passare anche a Giulio domani, questa mattinata, voglio vedere se il colore è uguale di quest'altra base, ma già è venuto lui stasera a vedere, quindi non c'è problema, stamattina è passato. Babbo, già, ti saluto, vai, chiudo, sono le 11:20, sono domani. Non riesco ad alzarmi, vado a letto, sono stanco. Ciao, grazie alla compagnia, un abbraccio. Quando vuoi, quando ritieni opportuno, quando ne hai voglia, giustamente senza abbandonare gli altri amici che hai negli altri canali, per carità di Dio. Io non devo fare queste cose. Quando ti fa piacere che mi senti, mi fa piacere scambiare due chiacchiere, anche andando giustamente a trovare gli altri amici negli altri canali. Ti saluto Gianni, grazie di tutto, una buona notte, un buon inizio settimana per domani e salutissimi per il QRA Famiglia a te. Ciao Gianni, ciao, io ci ho più. più amici di quanto le possa avere il Presidente della Repubblica, guarda, e mi cercano tutti e sono d'accordo con tutti, quindi non ho problemi, ribadisco, di avere quelle 3, 4, 5, 6 persone che mi odiano. Su 6 persone che mi odiano ce ne sono 12 che mi vogliono bene, tranquillo. Ciao Gianni, grazie della compagnia, un piacere parlare con te. Alle prossimine, buon inizio settimana e salutissimi a casa. Grazie Claudio, va benissimo, buon inizio settimana, ciao a tutti, ciao. Ciao Gianni, ciao, buonanotte.